Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Almost blue, almost doing things we used to do. There's a girl here and she. Una puntata dedicata a Carlo Lucarelli, uno degli scrittori di noir più famosi in Italia. Quella che state sentendo, infatti, è Almost Blue, canzone versione cantata da Elvis Costello, che era stata una delle canzoni della colonna sonora del film, appunto, Almost Blue, che era stato tratto a sua volta dall'omonimo romanzo di Carlo Lucarelli, romanzo datato 1997. E Almost Blue sicuramente uno dei romanzi più famosi di Lucarelli. Non è facile dare un'unica definizione di Carlo Lucarelli, perché vabbè, sì, innanzitutto è uno scrittore di noir, come dicevamo, ma è anche sceneggiatore, regista, è stato ed è conduttore televisivo per anni, insomma, ha condotto sulla Rai Blu Notte, era quel programma, insomma, dove venivano ricostruiti i delitti irrisolti o si cercava di far luce sugli intrighi della storia italiana. Ultimamente ha anche condotto su Sky Arte Muse inquietanti, insomma, lo scrittore in questo caso indagava sui misteri del mondo dell'arte. È andata in onda appunto la prima serie e forse potrebbero esserci novità in questo senso nel 2015. Ma veniamo a Carlo Lucarelli, scrittore. Suo primo romanzo, Carta Bianca, 1990, un noir a sfondo poliziesco. È stato tra l'altro ripubblicato nel 2014 da Einaudi. Altri romanzi, insomma, famosi di Lucarelli sono quelli legati ai suoi personaggi seriali: il commissario De Luca, l'ispettore Coliandro e l'ispettore Grazianegro. Allora, con il commissario De Luca l'abbiamo già citato, Carta Bianca, poi L'estate torbida, Via delle Oche. Con Coliandro c'è, insomma, un volume che raccoglie romanzi e racconti a lui dedicati. Con Grazianegro, lo dicevamo prima, Almost Blue, Lupo Mannaro, Un giorno dopo l'altro, Il sogno di volare, insomma, ce ne sono diversi anche in questo caso. Abbiamo incontrato Carlo Lucarelli al festival al Courmayeur, Noir in Festival, che è un po' il punto di riferimento, insomma, degli appassionati del noir, giallo e thriller, e ovviamente lui non poteva mancare. Ci siamo incontrati, dicevo, abbiamo iniziato a chiacchierare innanzitutto partendo dal suo ultimo libro, Albergo Italia, pubblicato da Einaudi, e poi naturalmente abbiamo parlato del noir, del giallo in genere. Allora, veniamo ad Albergo Italia. È un giallo ambientato nell'Africa orientale, diciamo, durante il periodo coloniale italiano. Siamo quindi a fine 800, ad Asmara. Le autorità italiane hanno aperto questo Albergo Italia per, appunto, celebrare il dominio italiano sull'Eritrea. E in questo hotel di lusso, insomma, passano diplomatici, imprenditori, politici, anche degli strani faccendieri. Uno degli ospiti viene trovato impiccato nella sua camera. Il capitano dei carabinieri, Colaprico, il suo assistente locale, cominciano ad indagare su questo ipotetico delitto, dietro il quale sembra possa esserci un traffico d'armi. Apparentemente questo Albergo Italia è un giallo classico, cioè viene ritrovato il cadavere e il colpevole, il presunto colpevole, si trova all'interno dell'hotel, quindi nessuno entra e nessuno esce. Insomma, ricorda un po' i gialli di Agatha Christie. Nello stesso tempo, però, Carlo Lucarelli, insieme a questo giallo classico, ci mette comunque lo sfondo sociale a cui lui è abituato, quindi appunto la corruzione, gli intrighi di potere e così via. Però, insomma, ci siamo incontrati, dicevamo, e la prima cosa che gli ho chiesto: e se in questo Albergo Italia c'è stata da parte sua una sorta di nostalgia, una voglia di ritornare al giallo classico? Sentiamolo. In un certo senso sì, perché questo era un romanzo che io ho scritto per divertimento. Beh, tutti i romanzi scrivono per divertimento, è chiaro. Però era un romanzo che voleva essere una piccola cosa, una digressione, no, in mezzo alle cose che scrivevo. Volevo riprendere le suggestioni che avevo accumulato scrivendo L'ottava vibrazione, quindi l'Eritrea del periodo coloniale. Avevo tantissimo materiale, ho detto bene, e volevo scrivere un giallo classico, proprio per giocare, per divertirmi, dicendo va bene, qui non faccio nient'altro che scrivere una bella storia in un bel posto. E poi mi sono accorto che non era possibile, perché in effetti dopo un po' hanno cominciato ad entrare dentro servizi segreti, e scandali finanziari. L'Italia delle colonie di allora non era diversa dall'Italia metropolitana di allora, che non è assolutamente diversa dall'Italia di adesso: faccendieri, mafie, servizi, politici corrotti. E alla fine è venuto fuori una cosa che sta a metà, purtroppo. Cioè no, purtroppo, volentieri, anzi a me è piaciuto molto. Scrivere quindi un giallo negli anni 2000 non può prescindere dagli aspetti, diciamo, sociali dal contesto in cui siamo immersi. Purtroppo sì, ma credo che fosse così anche quando scrivevamo gialli una volta negli anni 30, oppure quando scriveva Agatha Christie. Comunque tu scrivi all'interno di un contesto, perché al di là dell'essere un giallista, cioè uno che scrive di un delitto e di un'indagine, sei uno scrittore. Lo scrittore è figlio delle suggestioni del suo tempo. In più è vero che il nostro contesto criminale è quello. È molto difficile scrivere di un giallo che sia avvenuto all'interno di una camera chiusa che riguardi solo quei quattro personaggi, perché non è così la vita. Comunque ci sono tante altre cose che hanno a che fare comunque con la politica, con la società, col costume, con molte in Italia, con un sacco di volte con la criminalità organizzata, che per forza di cose entrano dentro la tua storia. A proposito di criminalità organizzata e di contesto, adesso andando così, facendo un flash sull'attualità, che idea ti sei fatto di questa mega inchiesta romana della corruzione vista dagli occhi di chi scrive tanta fiction, ma prendendo spunto dalla realtà? Assolutamente, che era ora che arrivasse, naturalmente. Noi abbiamo questa curiosa abitudine di stupirci tutte le volte di scoprire un contesto criminale dentro un altro contesto. Oh, guarda un po', c'è la criminalità organizzata dietro quella cosa lì. Siamo così da sempre. Le prime cose su un contesto criminale che ha a che fare con l'economia, la finanza, la politica, tra virgolette, le prime trattative, chiamiamole così, sono del 1860 e ci sono state denunce dirette ancora all'inizio del Novecento. Avremmo potuto leggere il rapporto San Giorgio, tante cose così, e avere esattamente lo specchio di quello che c'è adesso. Per cui stupirci che stanno succedendo certe cose, che dietro una cosa c'è la criminalità organizzata, oppure la società civile si è fatta criminalità organizzata, non dovrebbe stupirci per niente, anzi dovrebbe essere inchieste che avremmo dovuto fare da un sacco di tempo. Ben vengano quando vengono e scoprono dei pentoloni che noi sappiamo perché li abbiamo già scritti anche noi. Noi abbiamo messo in scena dei meccanismi che ora vediamo che sono quelli, ma non è che li abbiamo messi in scena perché noi siamo più bravi e più criminali dei criminali che si sono ispirati a noi, perché c'erano, ci sono da sempre nel nostro paese. Infatti i nueristi hanno anche questa caratteristica, quella volta di anticipare, o meglio, più che anticipare, attraverso la fiction riescono a raccontare cose che non sono state ancora provate dal punto di vista giudiziario, per esempio. Questo può essere un ruolo, secondo te, della fiction noir, o si toglie troppo alla vera inchiesta giornalistica? No, questo purtroppo è un ruolo della fiction noir. L'inchiesta giornalistica c'è, ovviamente ce ne sono tante di molto belle, ma hanno i loro problemi, se ne fanno sempre di meno perché costano e molte volte sbattono contro un muro di gomma oppure un vero e proprio muro che gli impedisce di andare avanti. Noi siamo più liberi da questo punto di vista, perché noi, il nostro compito non è quello di dire nome e cognome, cioè il capo della mafia è Pinco Pallino. Noi dobbiamo mettere in scena i meccanismi che mettono magari in contatto il mafioso con il politico e con l'imprenditore. Noi raccontiamo questo, mettiamo in scena questi meccanismi, dovremmo familiarizzare la gente a questi meccanismi, che quando li legge sul giornale lo sa. Io ho imparato cos'è la mafia perché ho visto Il giorno della civetta, e quando ho letto le cose sul giornale ho detto: ah, come Don Mariano quando va in quella sede di quel partito politico, perché Sciascia e poi insomma il film le hanno fatti vedere. Questo dovremmo fare noi. Da questo punto di vista qua dovremmo essere presi più sul serio, perché la gente poi che legge i nostri romanzi e che vede nei nostri romanzi dei meccanismi che accetta e nei quali crede e ci si appassiona, poi chiude il libro e si stupisce quando li legge sui giornali. Non dovresti stupirti di questa cosa. Se può accadere in un libro, è già accaduto nella realtà e te ne accorgerai tra poco. Allora meglio accorgersene quando c'è il libro. Leggi una cosa che ti spaventa, poi chiudi il libro e dici: guardiamoci attorno, com'è qua? C'è questa cosa? Dov'è? E questo dovrebbe essere lo stimolo fatto al giornalista. Vai in giro e guarda e dimmi se il giornalista ha scritto una cosa vera oppure no. In genere si dice che il noir è molto legato al territorio di uno scrittore. C'è chi scrive di Bologna, chi di Torino, chi di Roma, chi di Milano e così via. E che il noir indaga soprattutto le ragioni del male, non è che prenda sempre le parti dell'uno o dell'altro, mentre il giallo, insomma, dà una soluzione. Secondo Carlo Lucarelli, esiste ancora una distinzione di genere all'interno del genere? Che insomma, ormai questo discorso lo facciamo sempre, si deve parlare di letteratura di genere o no? Io dico no, perché sono romanzi comunque. Però, fra noir e giallo, esiste ancora una differenza o no? Ma negli scrittori di oggi, io e gli altri come me, direi di no. Oddio, è una differenza che è come se uno facesse la stessa domanda a un musicista, no? E gli dicesse: ma è diverso suonare quel particolare strumento o quell'altra versione? Sì, certo che c'è una differenza, però non è una differenza che ha a che fare con la tua musica. E certamente giocare di più con una grammatica che quella del giallo classico, no? Che si basa sulla razionalità, o giocare di più con un'altra grammatica, quella del noir, che invece privilegia di più l'atmosfera, significa variare, arrangiare la musica che stai facendo in un modo piuttosto che in un altro, ma questo non cambia quello che stai facendo. Ora è sempre più difficile avere una distinzione, che è una cosa curiosa, riguarda soltanto noi che scriviamo un certo tipo di cose. Beh, non viene chiesto agli altri scrittori: tu a che razza appartieni? Perché noi siamo sempre stati percepiti un po' come un mondo a parte, no? Che doveva giustificarsi. Perché scrivi queste cose? O perché sono matto, o perché se no sono un giallista, va bene. Mentre invece agli altri non è mai stato chiesto: cosa scrivo? Scrivo le mie storie. Credo che adesso stiamo andando nella direzione di una contaminazione tra vari generi, varie cose, per cui sarà sempre più difficile mettere un autore anche come noi nello scaffale con sopra scritto un'etichetta. C'è da dire però che spesso in Italia la tradizione del giallo, del noir, è stata legata alla provincia, al commissario, magari anche un po' pasticcione, simpatico, più o meno appunto simpatico, così via. Mentre il cosiddetto thriller all'americana, insomma, in Italia ci sono pochi scrittori che sanno fare il thriller all'americana. C'è ancora questo gap, secondo te, oppure anche qui scrittori, non so, penso come te, Sandrone Dazieri o Donato Carrisi, effettivamente siete un po' diversi? No, dipende dalle storie che raccontiamo. Esiste semmai una differenza di intenzioni, se vuoi, ma anche di stile, tra un certo tipo, chiamiamolo sempre noir per dire, un'etichetta unica, tra un certo tipo di noir mediterraneo, noi, i francesi, gli spagnoli per esempio, e il mondo anglosassone. E sono delle cose un po' diverse. E un modo di scrivere diverso e delle attenzioni allo stile, non che siamo meglio o peggio, però attenzioni allo stile diverse all'umanità dei personaggi e così via. Per cui le cose che scriviamo noi molte volte hanno questo tipo di commissario, questo tipo di investigatore, perché nel noir mediterraneo la personalità dei personaggi, lo scavo umano, diciamo, il contesto umano diventa molto importante. Mentre invece molte volte nel thriller anglosassone, ripeto, non perché sia meglio o peggio, ma è più importante invece un certo ritmo della narrazione o quello che sta succedendo. Questa è una cosa. L'altra cosa è che è vero che anche poi il thriller americano, per esempio, è molto legato al contesto in cui si muove, cioè è locale. E sono cose che avvengono a New York e sono cose che avvengono a Budrio, in provincia di Bologna, per dire, il primo paese che mi viene in mente. Perché io ho pensato questo, perché noi siamo persone che raccontano storie veramente eccezionali. Quando uno legge I delitti della Rue Morgue di Edgar Allan Poe, è una cosa fantascientifica. Cos'è successo? Uno morto infilato nel camino, sbranati, in un posto dove non potevi entrare. Per fare in modo che la gente ci creda a questa cosa qui, e che non sia una favola dei fratelli Grimm, tu devi dire che è avvenuto nella Rue Morgue. Cioè, noi siamo quelli che nominano le strade. Allora, se io voglio farti credere che c'è un serial killer a Bologna, devo dirti il vicolo di Bologna, perché allora tu entri dentro lì. Per questo siamo legati. Siamo legati ai contesti che conosciamo. Io conosco Bologna, e quindi conoscessi New York, lo farei a New York. E lo stesso vale sicuramente per gli americani. Se vedi anche serie televisive, sono ambientate a Seattle oppure a Los Angeles, e quella è Los Angeles. Ma ci sono ancora delle regole che i cosiddetti giallisti, noiristi, insomma, devono seguire per scrivere un romanzo di genere, definiamolo così? Sì. Beh, allora, tutti i grandi autori hanno infranto le regole precedenti e hanno inventato nuove regole per scrivere un giallo. Van Dyne scrive le 20 regole per scrivere un giallo, ferre, poi arrivano gli altri e dicono: non ci sono regole, ci sono solo le mie, te ne fanno altre 10. Non ci sono regole. C'è una regola della narrativa, non so come dire, un istinto, un respiro narrativo. Io ho sempre fatto questo esempio, che è questo: il bambino che torna a casa da scuola, capisci che uno è un narratore da lì, e ti racconta tutto quello che ha fatto la maestra. Oggi la maestra ha fatto piripipiripi, noiosissimo a volte. Cosa vuoi che gli succeda? Ai 10 anni, se non sei uno di quei casi che va sul giornale, non è successo niente. Questo è un certo tipo di narrazione. Poi esiste un altro tipo di narrazione, che è quella del noir, ed è il bambino che torna a casa, vede che i genitori non lo considerano più, e allora dice: non immaginerete mai cosa ha fatto oggi la maestra. Ecco, questa è l'unica regola. Costruisco un mistero e non te lo racconto subito. Questo è il noir, il thriller, il giallo, tutta quella cosa. Noi raccontiamo così. Guardami un po', non immaginerai mai cosa ha fatto oggi la maestra. Cosa? E se il bambino è un vero narratore di thriller, in quel momento si versa un bicchiere d'acqua con una esasperante lentezza. Questi siamo noi. Il resto sono regole che ci inventiamo nel momento, insomma. Ma quando, ecco, tu pensi a una trama di un tuo romanzo, da cosa parti? Da un personaggio, da un fatto, dalla fine, per poi magari ricostruire che cosa è accaduto prima? Cos'è la prima immagine così virtuale che ti viene in mente? Bene, la trama, allora, proprio per la trama, in genere mi viene in mente un'idea, perché convergono un po' di cose insieme, no? Qualcosa che è accaduto, che ho letto sul giornale, non un fatto, ma proprio una suggestione, o di cui ho sentito parlare, che mi fa venire voglia di raccontare una storia, un personaggio che me la può raccontare, che mi piace e sono curioso di vedere che cosa ci fa lì dentro, e un contesto che ritengo importante raccontare, appunto l'Eritrea del periodo coloniale, per esempio. Poi manca la trama, naturalmente. La trama mia di solito parte all'inizio da un mistero, da una bella scena inquietante, appunto non immaginerete mai cosa ha fatto oggi la maestra, che rimane lì. Dopodiché il resto io non lo so e vado avanti pezzettino per pezzettino, scrivendo come il lettore legge e come l'investigatore scopre. Vado avanti e vediamo che succede. Ho in mente qualche momento che voglio raccontare, che scrivo su dei post-it che attacco sulla porta del mio bagno, una grande porta bianca, e so che quello lì, prima o poi mi piacerebbe andare lì perché è una scena che mi piace. Però quello che succede, chi è stato, cosa sono, io non ne ho idea. Quando arrivo alla fine, sono fortunato, lo scopro, in genere mi piace e spero che piaccia anche al lettore. Quindi ti sorprendi anche tu? Sì, sì, mi sorprendo un sacco di volte. I personaggi fanno quello che vogliono, scopri dei contesti diversi. Quella scena attaccata lì, no, sulla porta, non ci arriverai mai, quella è quella di un prossimo romanzo, sicuramente. A proposito di personaggi, tu hai diversi personaggi seriali, insomma personaggi che ritornano, anche qui è una tradizione del noir, del giallo. Personaggi seriali sono una risorsa per uno scrittore o non rischiano a volte di tenerlo un po' in una gabbia, di essere obbligato? Sì, dipende da che tipo di serialità e dai motivi per cui lo scrivi. Io ho diversi personaggi che tornano e di solito tornavano dopo anni. Ho scritto Carta Bianca con il commissario De Luca, poi un altro romanzo, poi Coliandro, poi Grazia Negro. E tornano quando c'è una storia che può essere raccontata da quel personaggio. Quindi non è una gabbia, una vera e propria gabbia, perché quasi mai scrivo un romanzo e poi subito dopo un altro romanzo uguale. Proprio per quello, per starcene fuori, ma anche perché mi viene in mente un'altra suggestione, il commissario De Luca non la può raccontare perché è troppo vecchio, Coliandro non è in grado perché è troppo superficiale, allora è Grazia Negro che me lo racconterà. Poi ci sono delle serialità molto serrate e anche a me piacciono queste cose, naturalmente voglio continuare la serie di Albergo Italia in maniera abbastanza serrata perché mi piacerebbe, ho ancora delle cose da chiedere a quei personaggi, ho scritto un romanzetto molto corto, appunto un divertimento, però c'è ancora tanto. E lì bisogna stare attenti naturalmente, perché può essere che a un certo punto ti trovi costretto a scrivere un'altra storia con quel personaggio perché ormai quello è il ritmo che c'hai in testa e magari in quel momento lì avevi voglia di fare qualcos'altro. Molti autori sono rimasti del passato prigionieri di questa cosa qui. Finché ti diverte e finché hai domande da fare al personaggio, però è bello continuare a scrivere. Chi è secondo te che si è lasciato un po' schiacciare dal suo personaggio seriale? Beh, a suo tempo, oddio, anche nel bene, per dire, Conan Doyle odiava Sherlock Holmes e l'ha fatto morire e poi non c'è riuscito, lui si sentiva schiacciato, per fortuna non l'ha fatto perché è un gran personaggio, ma non lo so, Agatha Christie sicuramente ha avuto un po' di romanzi verso la fine in cui tornavano un po' le stesse cose, i giallisti del passato erano così, qui adesso no, dire di no, leggo, insomma abbiamo tante cose per la testa in questo momento che è difficile farsi schiacciare. Prima parlavamo anche di regole della narrazione, se esistono delle regole su come tu approcci la scrittura di un romanzo. Da qualche anno hai avviato questo progetto Bottega Finzioni, che si occupa di narrazione a 360 gradi, romanzi, fumetti, sceneggiature, televisione, anche teatro adesso. Perché hai voluto creare questa realtà e che, come dire, che soddisfazioni proprio ti dà concretamente? Che cosa esce fuori da questa bottega? Beh, la bottega ci ha dato e ci sta dando enormi soddisfazioni. Sono ormai 4 anni che c'è. L'idea era quella di fare una cosa che fosse come le botteghe degli antichi pittori, cioè lavorare su un progetto concreto assieme a allievi, tra virgolette, cioè chi si iscrive, e maestri, tra virgolette, che saremmo noi, e mettersi lì a vedere proprio da come si impastano i colori e come, per poi alla fine vedere che cosa salta fuori. può essere che salta fuori un progetto concreto veramente bello, che di solito ci viene chiesto dall'esterno o ci autocommissioniamo noi, e che quindi porta i nostri allievi e noi direttamente dentro quel mondo a cui vorrebbero accedere, cioè diventano subito sceneggiatori, scrittori, quello che vuoi, oppure non si arriva a niente, il progetto in qualche modo si scioglie, però c'è stato un percorso formativo in cui hai capito come si fa e come non si fa. È una cosa che ci ha dato grandi soddisfazioni perché ci voleva tempo, è chiaro, non è che le cose si fanno in un mese, ma dopo 4 anni abbiamo realizzato un bel po' di cose concrete, da programmi televisivi come Le Muse Inquietanti, che era la commissione che avevo portato io nella bottega, fino a Dylan Dog, per esempio, per il fumetto, documentari come quello di Vilma Labate, insomma abbiamo fatto un bel po' di cose. E altre ne stiamo facendo. Perché? Beh, intanto perché volevamo concentrare a Bologna, che è un posto in cui c'è tanta scrittura, tanta narrazione, ma poche volte è istituzionalizzato, cioè c'è un suo centro che continua nel tempo. E volevamo farlo lì, appunto, a Bologna. Volevamo creare un punto di riferimento per questo tipo di situazioni. E poi perché le scuole sono importanti, c'è un sacco di gente che ha voglia di raccontare delle cose e non sa come fare, e quindi ci vuole qualcuno che in qualche maniera ragiona di questo con loro. I laboratori sono importanti. Io personalmente, perché tutte le volte che ho tenuto un corso di scrittura, un laboratorio, insegnavo alla Holden per esempio qui, imparo un sacco di cose perché razionalizzo quello che faccio io e vedo cosa mi dicono, cosa fanno loro, cioè gli allievi. Ecco, ma imparare il mestiere di scrivere è possibile, ma come fai a riconoscere se una persona ha talento e che tipo di talento ha e come fai, come dire, anche maieuticamente a farlo venire fuori? Beh, il talento si riconosce perché è la stessa cosa di quando vai in libreria, compri un libro, cominci a leggere il libro di uno scrittore e ti accorgi che ha talento perché ti piace. Allora, ci sono persone che anche soltanto in un piccolo spunto, in un esercizio, durante la selezione, ti accorgi che ti piacciono. Non perché loro ti piacciono, ma perché hanno fatto una cosa che dici, ah, ma qui c'è qualcosa, bella, mi è piaciuta, guarda un po', se fosse più lunga, se fosse più così, se fosse più cosa, sarebbe molto bella, vediamo di farlo. Quello che si fa è questo, è ragionare su dei problemi, il laboratorio è questo, è una cosa che facevamo noi scrittori prima ancora delle scuole di scrittura, io appartengo a una generazione che ancora non c'era, però ti trovavi assieme a uno a dire, ma sai che ho letto il tuo libro, ho avuto una paura all'inizio, come hai fatto? E l'altro ti diceva, volevo raccontare questo, ma non l'ho fatto, mi è venuto in mente che se io, e poi magari stai parlando di tecniche rubate ad altri, ho fatto come in quel film di Hitchcock che ho visto, in cui non si vede niente all'inizio, infatti io non ho scritto quel nome. Ecco, questa cosa qui la devi portare in un laboratorio, tra noi che li abbiamo affrontati questi problemi e chi invece li deve ancora affrontare, ecco. Io credo che si faccia così, il nostro metodo è quello, poi ce ne sono tanti. E questo era Carlo Lucarelli, uno degli autori di noir più amati in Italia. Abbiamo chiacchierato di tante cose, siamo partiti dal suo ultimo romanzo Albergo Italia, pubblicato da Einaudi, ma naturalmente poi abbiamo parlato del noir, del thriller, del giallo in genere e anche di questo suo progetto, di questa sua scuola di scrittura, l'avete sentito, che si chiama Bottega Finzioni e ha sede a Bologna. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Filippo Aureggi. Vi ricordo che come sempre trovate questa puntata in podcast su radio24.it, naturalmente siamo anche su Facebook come Il Cacciatore di Libri, /Radio24, e anche su Twitter come Ale Teddina. Una buona lettura da Alessandra Tedesco. Disaster became me. It named me.